notte, quando sono andato via a dormire, c'ho una radiolina attascabile, più piccola di un cellulare come dimensioni, e c'ho una antennina telescopica di 20 cm e c'è anche la 27, diciamo, da 0 a 30 fa. E ti ho ascoltato con quella radiolina, sono rimasto a bocca aperta e ho detto, cacchio, talmente, siccome c'ha il DSP, un sistema di riduzione del rumore digitale, deve essere in automatico, e ti ascoltavo con la radiolina, sono rimasto a bocca aperta. Figurati, voglio mettere l'antenna esterna, siccome c'è la possibilità di collegare l'antenna esterna, io sono sicuro che con la radiolina, con l'antenna esterna, te ne tira un sacco di roba che con altri apparati anche molto più costosi non ci riesci. No, non sono rimasto per molto, diciamo, sono rimasto 10 minuti, dai, così, un passaggio veloce. Cioè, quello che arrivava più forte di tutti in assoluto era Gianni Eubroffetta, una radio da paura, proprio potente, cacchio, scavalcava tutti. Claudio, adesso come sta arrivando il tuo QTH? Ok, va bene, sì, adesso sai che apparato sto usando, un baracchino con un finale un pochino più grosso, e va bene, metto il cambio per Fabio. Ok, vabbè, comunque di segnale è sempre lo stesso, Santiago 9, Radio 5, mi piace, va bene. È molto forte di Cardino, sta arrivando quasi 9 più 30, c'è cioè più o meno il segnale di Fabio. Ok, avanti a te. Carlo, di Cardino 9.30, radio 5.30, anche un po' troppo la radio, però magari ma Gianni arriva meglio così, ce la teniamo così, tranquilla. E niente, e chiodo no, a sua modulazione, sono abituato a sentire probabilmente le valvole, però ho capito che Gianni Capri, che ha avuto un problema particolare sull'apparato valvolare, infatti una pressione di trasformatore. Mario, chiodo, ho capito male? Hai sentito Fabio? Scusa Claudio. No, non attacca niente, lui è pulito, ha attaccato solo un po' il micro. Chiodo, guarda se mi ascolti, guarda un po' se mi compi. Attenzione, sembra di fare un DX. Che sia un po' stretto di ricezione con l'apparato, si è colato come mai ieri c'avevo un altro apparato. E metti direttamente quello, che quello c'ha una radio, una modulazione spettacolare, magari è più sensibile ai segnali e riesce a tirarlo fuori per quello. Fabio deve essere le condizioni di ieri e degli altri giorni oggi. Aspetta, Claudio, mi ascolti? Claudio, mi ascolti così? Hai sentito, Claudio? È spostato, vabbè, vai sul delta e spostati un po' giù. Quando parla Claudio ti rendi conto il motivo per il quale non mi sente bene. È spostato di 2 kHz, quasi 3. Addirittura, figurati. Non c'è un bel abbinamento con quell'apparecchio, lui riesce benissimo con quel Sommercam, senza niente, senza aiuto arriva a 9 più 5, la radio è spettacolare, io non capisco questi vizi che hanno di utilizzare cose strane e con lineari che non sono perfettamente allineati. Bisogna stare un po' attenti che poi si creano dei problemi e si bruciano gli apparati. Infatti, adesso c'è un controllo di Riccardino che ha fatto questa cosa. Riccardino, fai gli ascolti. Bene, bene, ti ascolto Fabio. Comunque, come chiedo, 109, la radio mi piace, le 5 comunque sempre. I casi sono un po' troppo alto. Fino a cosa? Attenti, devo fare il microfono. Così forse va meglio, che mi sono allontanato? Non lo so, Robè, cosa succede? L'hai detto anche tu, l'ho detto anche io sopra di te, secondo me devi abbassare un po' la radio. Sembra che stai parlando attaccato alla bocca del microfono. Cosa va abbassare, il mic gain o l'altro? Il mic gain, a quanto ce l'ha? Il mic gain è a 2. A 2? Mettilo un po' meno di 2. Così forse va meglio? Il microfono non si può abbassare, comunque forse adesso va meglio. Alza un pochettino. Così va meglio o non cambia niente? A quanto sì? Sono poco meno sotto i 2. Beh, ti voglio vedere esattamente, prova, va. Ok, dimmi come sta andando, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova radio. E mi dici se sta andando meglio così. Comunque sono a 2 palmi di distanza dal microfono, oppure mi posso anche avvicinare. Però per fare una prova adesso sono a un palmo di nuovo. Non è un granché la modulazione, sembra un pochettino satura. Confermi, fa. Cazzo, la stessa piattista, più che satura completa. Non lo so, ma che microfono è il cazzo? 8-0. Questo cos'è, insomma? Questo ti ascolto molto meglio, prova a togliere il coso, la stufa, molto meglio, non ti, cioè, ti toglie delle modulazioni, quando attacchi chiara sempre la radio, però senza è molto meglio, il segnale 695 abbondante senza essere attaccato, per cui da parte mia, non so se ti ascoltano gli altri, Fabio l'hai ascoltato. Cazzo, l'ho ascoltato, guarda un po' chiodo, ma mi ascolti così. Ma questo cos'è? L'MV più 5 microfono? Una domanda, ieri abbiamo fatto delle regolazioni ed eri perfetto, adesso secondo me hai toccato qualcosa di questo microfono. No, non era uno, è impossibile, i tuni forse erano uno. Chiudili completamente i tuni e alza un po' il macchigè. Vabbè, abbassa un peluzzino, mettilo un po' meno di qua. Va bene, però ieri abbiamo fatto una regolazione, ti ricordo, una regolazione intermedia, lavorando su tutti e due i macchigè, sia quello del microfono che quello dell'apparato. E ti ho detto, lascia stare così perché avevamo fatto le due prove e ti modificavi un po' la modulazione, saltavi un po' il mic gain della radio rispetto a quello del microfono, avevamo fatto il giusto compromesso, adesso non mi ricordo le regolazioni, se le avevi messi tutti e due a 5 quelli microfono e radio, e l'altro mi sembra che era a 0 se non sbaglio i toni, o a 2, non mi ricordo. Fabio, ti posso fare una bassa? Cazzo, il telefono qua a fianco. E cazzo. Allora, scusa Claudio, l'apparato, il Sommercamp non ha la regolazione del mic gain. Una domanda, adesso i tuni a quanto ce li hai? Allora metti i tuni a 0 un attimo, molto meglio, lascia a 0 perché tu quando metti i tuni appena appena sollevati sembra che c'è l'essere muccia, fa shhh, tutto l'essere fa shhh, così. No, però questa è molto meglio come modulazione. Il livello del mic gain di questa quanto è? Loro due sono al telefono, Riccardo e Fabio, prova a metterlo a 2 il mic gain, mettilo tra il 2 e il 3 lo metti. Adesso sei perfetto come intensità, non toccare niente, se rimani in questa posizione, a questa distanza in cui stai parlando è perfetto. Il rosso lampeggia appena appena, per cui stai andando alla grande, se lo metti a 2 è un pochettino basso, così è perfetto, tra 2 e 3, se lo metti a 3 rimane fisso il rosso. Ma tu se c'hai quella carta da carrozzeri, il lato da carrozzeri, ci scrivi M Mickey Gain, MG scrivi Mickey Gain, ci metti 2,5, Tony sarebbe, ci metti 0. Ehi, attenzione a non avvicinarti troppo al microfono, tieniti sempre la stessa distanza. Se c'è una sedia rimani seduto con la schiena appoggiata in modo che c'è sempre l'intensità, perché adesso in questi passaggi eri un pochettino tendente al rosso fisso, per cui se magari ti ascolta qualcuno col volume troppo alto crea distorsione. Io ti sto ascoltando a volume basso con un altoparlante un pochettino decente, per cui non me ne accorgo della distorsione, però se dovessi alzarti un po' il volume di ascolto sento distorsione. Se sta guardando strumentalmente mi sono accorto che forse ti sei avvicinato al microfono o hai alzato l'intensità della tua voce e stavi leggermente saturando, ma stiamo parlando di cose molto molto molto per essere pignoli, dai. Certo, se tu rimani, trovati, c'è anche una sedia girevole, dopo stai parlando da una sedia normale, certo, quelli vari te li metti da un'altra parte, tanto non è che li leggi tutti i giorni, quando devi prenderle ti interessa, ormai te li metti in una cassetta o qualcosa, e se riesci a metterti qualcosa magari di cose inerenti il campo di telecomunicazioni. Poi sto notando ogni tanto ti sposti di direzione, sei attento, quel microfono è molto direzionale, per cui se ti sposti di oltre 20 gradi perdi completamente la intensità di modulazione. Di che genere stai parlando? No, di che genere di ricambi dico? Esattamente, se mi chiedono più che PK, Vespa N, sì, PK è ancora poco, ce ne sono troppe, dai, non è ancora il mercato, diciamo, magari tra 10 anni sicuramente ce ne saranno di meno e sarà un po' più apprezzata. Adesso tutti si stanno facendo la classica Vespa o la Special o la N, e poi non parliamo di Vespuni, quelli ne stiamo facendo tantissime. Vediamo se sono rientrati Fabio Riccardi. Mi hai sentito prima Gianni quando stavo parlando con Claudio? Ho detto a Claudio che ieri notte, ascoltandomi con una radiolina attascabile poco più piccola di un cellulare con un antenino di 20 cm, vi ho ascoltato da dentro camera da letto, ti presente, sono in mezzo ai palazzi e in mezzo al cemento armato, e sono riuscito ad ascoltarvi ieri notte. Tieni, già capita quello lì, soprattutto di Vespe, diciamo sino agli anni 70-80, dopo no, dopo ancora no, non c'è mercato. Ma c'è ancora sembra di che anno è? 66, quindi era monosella in origine questo. Sì. Volevo informare al canale 10, alla cortese attenzione, che io sto andando a Magna in carica batterie, cioè comunque saluto a Gianni, Claudio, Roberto, Fabio e altri eventuali in ascolto, e anche a Marco se il orario sta coincide, e ci sentiamo più tardi, vado a Magna, dopo vi dico anche il menù, non c'è problema. Sei a buona carica Riccardino, un buon tutto, dai, non so se mi trattengo molto, dai, vai Gianni per Riccardino. E io rientro per salutare Riccardino, Roberto, a Parma. E io, ok, quindi sei arrivato anche tu Fabio. Ok, cosa volevo dire? La N è 3 marce comunque, è nata con la sella corta, monosella, come ho suonato davano la sella lunga, se la volevi, confermi? Allora, con la N in origine è nata con i bulloni da 14, non da 10, i dati di fissaggio delle ruote, e vanno lasciati originali, io sono sempre stato contrario a modificarle, soprattutto adesso che diciamo sono state riapprezzate, rivalorizzate, le motovedette devono ritornare come erano all'origine, che colore era, e poi facciamo riprendere a Fabio. Sì, facciamo riprendere a Fabio, no, io sono sempre quello che sono lasciate come in origine, e poi tienetela da parte, quando ne hai voglia, sappi che siamo in condizione di ripristinarla se vorrai, cercherò di trattarti nel migliore dei modi, vai Fabio. I capa io completamente fuori argomento, non ho capito il modello di questa moto, che moto è? Riprendo io, una Vespa N del 66, quella in origine con sella corta, le ruote più piccoline della classica Vespa Special, e i bulloni anziché da 10 ce li ha da 14, erano in ottone quei bulloni in origine, sono molto bella, quei tamburi più piccoli, veramente carina, 3 marce, ne avevo fatto una tempo fa di quelle, adesso me ne hanno portate, ne ho due officina, c'è un Vespone, un 150 e un 125 GTS, quello è un ammasso di ruggine, è una cosa scandalosa, di un amico di mio nipote, il figlio è amico di mio nipote, il padre lo conosce mio fratello, è un rottame, un ammasso di ruggine, infatti neanche, però la voglio mettere a posto e per noi lavoro. Ok, vai capi a te. Certo che lo conosco molto bene, ne abbiamo fatto un paio di quelle lì, sono belle moto, sono molto quotate pure, 160 è una moto non dico rarissima ma abbastanza rara, per cui tengono molto il valore, è una bella moto quella, era un bel motore, molto brillante, eccetera, ne abbiamo fatto più di una di quelle. Ok, vediamo di nuovo se c'è qualcuno sul 10 che vuole entrare, se no riprende Fabio. Avanti Fabio, e tu Fabio che moto c'hai? Ma io giorno di San Giuseppe, tanto sono una videocassetta, le moto le ho vendute, vabbè, si è fatto bene, e adesso mi è rimasta una moto che devo vendere, perché non era la mia, era il mio padre, è venuta in maniera maniacale, una Honda Charlie, e niente, perfetta, devo cambiare le gomme, dargli una pulita, e questione di vendere, perché io ho detto che non avevo più toccato 20 anni fa, quindi continuerò a fare. come me che mi sono fatto male, c'ho ancora 6 cicatrici nelle braccia. Ok, io ce ne ho tante di moto, però me le guardo, me le vedo, me le coccolo, però no, le facciamo per gli altri. Quando io stavo facendo quella cosa con quella moto non mi rendevo conto di quello che stavo facendo. No, mi rendevo conto. E da lì ho capito che andavo oltre, che stavo cercando di ingannare le leggi della fisica e non me ne stavo neanche rendendo conto, capito? Dunque, niente, quello vuol dire ammazzarsi. Ma da tutto, domani mi prendo le moto. Domani mi prendo le moto, via la testa, subito. Poi la figlia, poi il stick, tutte, nel giorno e mezzo, via tutte. Non so, la moto è bella, però adesso con le strade di adesso, col traffico di adesso e con le persone di adesso non conviene avere moto. Se devi fare, se ti appassioni, ti prendi la moto, te la metti sul carrello, te ne vai a Mores, ti fai il giro e poi te ne torni a casa col carrello. Sì, poi ho seguito per 4 anni il campionato regionale di motocross, me ne stavo mangiando le mani, tra l'altro anche facendo un meccanico, una bella di fiori, uno per uno. Tutti in moto tranne me, ma io per portare la moto, anche se era per portare la vada tra una mancia e l'altra, o a portarmela davanti al camper che facevamo il gas di officina o quello di là, magari anche in moto, ma io a fianco, mai sopra. Come me. Io sono stato costretto 7-8 anni fa, dai, ed un amico a Genova, se tu vai a Genova, io ci andavo tutti gli anni, per muoverti a Genova a macchina è impossibile, devi avere una moto, uno scooterone. Cacchio, sono stato costretto a sedermi dopo tanti ma tanti anni, ho detto no, allora non possiamo andare, dovevo andare a Salone Nautico, lui abita magari a 5 km a Salone Nautico, e abbiamo preso la moto, questa è una persona grande, molto più grande di me, super prudente, ero, non dico cagato, ma di più, perché non mi sentivo a mio agio, ho detto cacchio, qua nel passato, siccome c'è la sopraelevata, Genova, un sacco di lì, tengono anche ritmi un po' veloci le macchine, ero un po' con la strizza, ho detto, camminiamo piano, non vedo l'ora di arrivare. Campa, io una cosa per due volte in questi anni, negli ultimi 20 anni, una volta dentro un villaggio con un caro cliente, per spostarci una fatta del villaggio, mi ha fatto sedere dietro il Vespone classico rosso, 125 primavera, e poi per portarmi dentro un campo da corsa a Mores, addirittura con il figlio di un mio, il mio vecchio amico, Nicola Serai, Marco Serra, meccanico. E a Puglia, anche fratello, conosco. La figlia, scusate il quote, doveva andare in camper che era molto lontana a prendere, non mi ricordo se un particolare per una macchina fotografica o non fosse un cronometro, il cronometro che stava impattendo, quando c'era la batteria a carica. E dai, dobbiamo andare a prendere l'altro cronometro che c'è in camper. Questa ragazza, questa bambina mi guarda con questi occhietti furbi e li fai gesto il cerno con la testa per la serie, monta dietro, ho detto no, troppo tolla, oggi mi ammazzo, però se lo merita la bambina, guarda. Ehi, a Riccardino ne ha due di quad, lo sai, e poi facciamo riprendere a coso, riprendi Fabio e fai riprendere un po' Claudio o a Gianni. Ma immaginavo prima il quad, per Riccardino girare col quad è come per lui avanzarci le scarpe, se questo vola non so quanti metri su. Col quad proprio si sente effetto, poverino, è veramente a manetta, il padre si dà paura, veramente, tanti complimenti. Gianni, vieni avanti, ma com'è la mia radio? Innesco ogni tanto, ti piace, mi ascolti bene, com'è? Come lo ascolti? Brecco. Sì, giusto, lo sai cosa abbiamo portato? Una moto che all'epoca era il top, in officina, lo ricordate? Guzzi 850, le Mars 2. C'è Riccardino, avanti Riccardino, menù? Menù oggi, poca roba, sto ancora ingoiando l'amaretto. Oggi menù stava dando 2 piatti fagiolini e poi 2 uova sode e una striscia di amaretti che sta ancora finendo. Va bene, dai. Le calorie giuste quotidiane già le prendi. Ok, vai Fabio, tocca a te. Kappa, bene essere informati anche sul menù, così domani sappiamo anche noi come organizzarci il pasto. Ho girato la direttiva, quella la direttiva giocata che ho fatto per sentire meglio uno, ma ti ridico. Ma perché lo senti male il muro su tu, Fabio? No, però vedevo che sullo speaker da tappa praticamente era un po' basso. Quello a Varo, vabbè, sempre per conto suo, la stazione lo tiene sempre alto, mi piace così la stazione, vantare chi riceve, capito? E invece il capo, poverino, faceva lampeggiare solo un paio di lettere, ho detto può essere fuori linea con muro, e ho girato la stessa. Fabio, comunque stavo ascoltando il discorso di parapendio, non c'è problema, porta tutti quelli della 27, li portiamo tutti con noi. Ma lo posso immaginare, tuo padre è entusiasta, il problema mio è che cosa faccio? E se non mi legge il cuore, se non mi leggo i polmoni? Bah, mia sorella lo fa e secondo te lei c'ha molto coraggio. Ma non è una questione di coraggio, tua sorella c'ha un fisico, una bambina, poi se cade la parapendio ribalta. Un po' come te, che siete fatti di gomma ancora. Se io metto male un piede, praticamente sono all'ospedale 6 mesi. Vabbè, tu concordi con il discorso di Fabio? Beh, io non sono fifone, ma non sono neanche di quelli sfidati coraggiosi. Non so se sarà il coraggio. Cioè, le molte volte mi viene la voglia, dico gira, dico a farmi un giro. Poi magari metto quel momento di lì e magari dico no, lascia stare. Anche se, diciamo, rischi non è che ce ne siano più di tanto. L'unica cosa, magari legarti bene in modo che non ci scivoli, perché magari ti posi e ci si è scivolato. E Gianni, tu cosa ne pensi? Facciamo vedere un parere a tutti, da. Ma dai, non è neanche questione di FIFA, forse è questione di un po' di buon senso per capire come riesce ad apportarsi alcune cose, capito? Logicamente anch'io da ragazzino, insomma, non dico lo studiato, però mi buttavo di più. Adesso capisco che il mio corpo è cambiato, è inutile. Se avessi avuto l'abitudine e avessi iniziato da presto e continuato su qualcosa del genere, magari adesso sarei ancora in forma. Però la lotta attuale, partire da questa età, anche se non ho 80 anni, insomma, mi sembra una cosa un po' salita. Ma quello che non capisco, stavo parlando l'altro giorno col padre, con Riccardo e anche col padre, cioè io a me mi piace quando vai lì a papà, che vado con gli altri, mi butto, mi piace proprio il coso di scivolare, saltare, però loro dicono che quelle cose non gli piace. Non gli piacciono che cosa, saltare? No, quei tubi super kamikaze, quelli che ci sono negli acquapark che parte dalla torre in alto, poi ci scivoli giù e prendi un po' di velocità. Quelli a me piacciono. Scappa. Quelli di Alghero camminavano perché li facevo muovere io, te li ricordi? Ma mi hai capito tu quello che sto dicendo io? Il kamikaze che ce n'è uno all'acquapark di Sorso, quello alto che ci devi salire in cima e poi ti devi, secondo loro ti devi mettere seduto, io invece mi mettevo coricato proprio per prendere la massima velocità. Io quando andavo in corso, adesso sono un blu, sarò una decina anni non ci vado in corso, c'è vicino alla Iaccio, a Porticcio c'è un acquapark, il primo che sono andato, ma lo sai come mi facevo la schiena quando ancora ero fidanzato, e più di 10 anni, vabbè, parliamo 20 anni fa, ne ritornavo io con la schiena dopo a Sassari, perché c'era una specie di coso, di lì secondo loro dovevi scendere solo seduto, e invece io vedevo i tedeschi che sono sfidiati, le cose più pericolose le fanno loro, lo facevo anche io, perché arrivavo a un certo punto che c'era una specie di gomma, che di lì come, con la velocità che prendevi, ti alzavi in aria e sbattevi la schiena di nuovo, superavi questa specie di dislivello e sbattevi la schiena, poi entravi nella piscina a manetta, e talmente entravi veloce, cioè arrivavi quasi a sbatterti al muro, lo sa gente che si è sbattuta al muro, ci mettevano il polistirolo e c'era il tipo con il rampino o il mezzo marinaio, il tipo del controllo, lo sa la gente che recuperava che andava a sbattersi di lì, un bel di gente. No, questa è invece l'aperta. Allora, quello di Water Paradise è molto alto, devo dire l'altezza è bella, però è tutto rettilineo e arrivi alla fine e ti frena l'acqua. Questo invece non ti frena l'acqua, parti da su, l'altezza forse è un po' più basso, però è molto più pendente, arrivi a un certo punto talmente prendi velocità a metà strada, c'è un'altra pendenza un pochettino più pronunciata, quando salti di lì sbatti e arrivi nella piscina, la piscina non è bassa, c'è l'acqua come quello lì, è proprio ti tuffi dentro la piscina. e quando prendi un po' di velocità, se non stai attento, ti sbatte al muro, c'è un muro di fronte alla parete della piscina, e loro hanno messo il polistirolo, ma un sacco di gente si è sbattuta, ma si è fatta anche male lì. Quindi sono più belli con la piscina, anche se per certi versi devi stare un po' più attento, però a me piacciono più con la piscina. Quello del waterpark arrivi già quasi frenato alla fine, gli ultimi 10 metri sei già quasi fermo. Vai Fabio, mi hai capito quello che dico, Fabio, quelli di waterpark? Sì, campo, anche se non li ho visti quest'anno, ne ho visto altri. Sì. Vabbè, lì la faccio giù a male a toccare il ferro, vabbè, io c'ho il microfono in mano, l'acciaio, faccio va bene. Sono fatti male in tanti, sì, perché hanno sforato misure, perché mentre scendevano si sono girati o hanno dovuto la testa, no, ma anche lì ci vuole un po' di, bisogna essere un po' spigliati, dai. A me diciamo il mare piace tutto tuffare, io la cosa che mi piace di tutti è tuffi, andare a tuffare, naturalmente bisogna stare un po' attenti perché molte volte ho rischiato di farmi male, anche 3 anni fa sono andato nella zona di Coso, ricordo adesso in che zona ero, della, diciamo verso Calabrandinchi, quelle zone lì, adesso mi ricordo se era, c'era un isolotto, forse un po' più in giù verso Coso, verso Siniscola, c'era un bel posto di rocce e tutto quanto, e poi su questa roccia in mezzo al mare, diciamo dalla riva, c'erano stati a 50 metri, c'era questa specie di scoglio affiorato, certo, sono andato a tuffare da lì, meno male ho messo le mani, se no mi sarei troncato il collo, perché il fondale sembrava più alto, invece era basso, ho preso la rincorsa, mi sono alzato proprio di punta, pum, ho toccato il fondo con le mani, se non avessi avuto le mani mi sarei spaccato il collo. Ora bene. Ci avete parlato in due, avanti che Riccardo. Scusate, sempre il problema mio. Comunque, a proposito di queste cose di mare, io comunque non sono mai andato a questo Aquapark. Se vedi, io però ero andato, lo conosci quello splash ad Alghero? Ma quello che è sul mare, state dicendo? Sì, ad Alghero, che è sul mare, è nella parte più fuori di Alghero, andando fuori Alghero quasi. Ma quelli sono gonfiabili, non è niente, dai. No, per dire gonfiabili, lo so, però se vedi un giorno ci sto affogando lì sotto. Ma tu sai nuotare bene? No, so nuotare, è che un giorno c'era un bel gente e mi hanno spinto là dietro nello scivolo e sono andato sotto i gonfiabili e quindi non trovavo via d'uscita. Non ti devi far prendere al panico, piano piano, respirare delicatamente senza farti venire la fame, se no è pericoloso. Mi è venuta proprio la cosa sbagliata, se mi stavo spaventando e girando, meno male che sono riuscita a trovarla. Ehi, bisogna stare un po' attenti, calma e sangue freddo senza spaventarsi, sono in pochi secondi bevi acqua e se non te ne tirano fuori entro 3 minuti sei morto. Ok, avanti Claudio, a te e poi farei girare per Fabio. Ecco, io invece ho fatto alzare un aereo un giorno, però non è più difficile, non l'ho mai fatto, riportato a terra. Cos'era? Un'altra leggera? Ecco, ho fatto tutto il corso, eccetera, mi sono fermato un attimo prima di chiudere perché ho dovuto spostare da qui, però se qui è andato, tiravo mollato e le dicendo, una cosa molto carina, però poi insomma non l'ho chiuso e sono voluto atterrare perché è la cosa più importante è atterrare, non alzare. Oh Fabio! Kappa. Stavo già pensando che stavi per dire che hai pilotato un giocattolo. No, un giocattolo, non è grande, è piccolo, però è vero, cioè un monomotore. È sempre un aereo, anche se è piccolino, ha le stesse cose di un aereo, magari in versioni più limitate, come autonomia, come altezza e tutto, però i concetti sono sempre gli stessi. No, io volevo dire, pensavo per pensare che voleva dire un modellino. Allora io ho due amici che uno, vabbè poverino adesso è morto l'anno scorso, mi stava facendo il flash anche a me di prendermelo il brevetto, tanto a Fertiglia, ricordatevi che Fertiglia nel piccolo è stata una delle prime scuole di volo d'Italia, esiste dai tempi di Mussolini, era l'avanguardia all'aeroporto militare di Coso, di Fertiglia, parliamo degli anni 30, all'inizio, prima della seconda guerra mondiale, era molto apprezzato perché c'era una scuola di volo militare lì, era un amico mio lo stesso, questo diciamo pilota da varie anni, da diversi anni, decine di anni, poi addirittura ha avuto un atterraggio di fortuna, lui è partito da quel piccolo coso privato che c'è a Platamona, da lì poi gli è mancato il motore, ha dovuto fare l'atterraggio di fortuna, è arrivato a Sennori in un campo di foso di pomodori, è riuscito a atterrare, ha distrutto tutto, lui era più che altro preoccupato per il terreno, allora dice il padrone è stato in gamba, gli ha subito accudito, hanno distrutto l'aereo, però si sono salvati. L'ha passato al pomodoro, l'hanno fatto, però questo l'ha raccontato con un senso di sicurezza, erano in due su questo, come si chiama, questi ultraleggeri, però l'ha raccontato con un senso di sicurezza, nel senso quando parli con una persona che sa quello che sta facendo, perché mai qualcuno ci siamo cagati qua, invece è stato molto attento, ha cercato di trovare la soluzione migliore, è riuscito a farlo planare l'aereo senza motore, è riuscito a arrivare a coso, a Sennori c'era un appezzamento, un terreno, un orto, è riuscito a arrivare di lì. In quei momenti ci vuole, non lo so cosa ci vuole, sicuramente uno sguardo da parte del cielo, quello sì, qualcuno che ti guarda dall'alto, e poi se ti fai prendere l'adrenalina giusta magari te la capi, sono quei momenti in cui ti metti a fare cose che pensi che non saresti mai stato in grado di fare. Ma lui ha avuto l'accortezza di non atterrare in mare, perché a uno la prima cosa che pensa è mi butto in mare, domani se ti butti in mare sei morto. Lui ha cercato di trovare una cosa suffice, ha trovato un terreno coltivato e un po' ha attituito la caduta. Se fosse caduto in mare si punta, si capota e si frantuma. Il mare è come una roccia, diventa granito di fretta, c'è poco da fare. Il mare sembra che diceva che è acqua, no? Ma poco è dura. Sì, sì. Ok, Gianni, Capri o Claudio, uno di voi due avanti. Me l'ha detto Babbo che era a metà verde, comunque l'ha conosciuto, sì, e no, non ho mai pensato io questa passione, come dire, per gli ultraleggeri aerei. Vabbè, le passioni sono come tutte le cose, magari a qualcuno piace, a qualche altro no, a me mi era mezzo alzata in testa, mentre neanche a pagarmi c'è un amico mio coraggiosissimo, ma proprio coraggioso, quello era sfidiato, lui ha avuto il coraggio di buttarsi in colpo alla caduta, ha fatto quel corso che la mattina ti fanno il corso teorico e poi all'ora di pranzo, dopo pranzo ti fanno buttare, e l'ha registrato il video con la telecamera, la GoPro sulla fronte, voi dovete sentire le strilla e la cagatura di questa persona coraggiosissima che non temeva niente, si buttava a tutti i punti più pericolosi, andava un ragazzo e ha detto mai più in vita mia fare una cosa del genere, si è cagato so. Capita, non te l'aspetti, a un certo punto succede qualcosa, vuoi tornare indietro, capito? Guarda, ero sto scherzando, mi ha detto Robè, ero con tanto entusiasmo proprio caricato a molle per farlo, quando sono arrivato sull'aereo che ha aperto il portello, ho detto no, alla fine cacchio, attaccati a me, ti butti in due, ti devi buttare in due la prima volta. E poi dice mai più, ho detto mai più una cosa del genere. E capa, invece Robertino, e chi è questo Robertino nuovo? Riccardino secondo me paura non avrebbe avuto. Vogliamo spesso con Babbo in parapendio, comunque lui è da 30 anni che vola in parapendio, ce ne ha un pochino di esperienza, poco a poco però. Già lo so, dice uno dei primi, se non il primo, come sta bene. Aspetta tu, a fianco hanno deciso di alzare un po' la potenza, perché mi risento sul ricevitore che delle spuglie allucinanti, non ho capito, ci sono delle spuglie su dove? Spuglie allucinanti qui a fianco a me, sui 4 di Pugli. C'è gente di Slater, c'è gente che sta parlando su altri canali, dici? No, gente che manda musica, che c'è un broadcast. E addirittura ti disturba a te? Sento dei picchettini di graffio, come quando l'aria è molto satura, ma comunque la senti da lontano, no? Basso, però tru, vado in giro, 100.2, eccolo lì, via, trovato il tru. Ma c'è stato un periodo, io parlo tanti anni fa, che ne ha avuto poche di lamentele, entrava sui citofoni, poi aveva cambiato gli apparati, aveva preso qualcosa di più sofisticato, perché spingeva forte, perché poi lui sovramodulava, superava il 72 kHz di coso, di larghezza di banda, per cui aveva un sacco di problemi. Poi aveva rifatto gli impianti d'antenna, tutto il vicinato di lì, con coso, con sistemi di antenne molto più selettivi, perché prima con i televisori analogici entrava di tutto di più, adesso questi digitali sono molto più selettivi e non ne tirano fuori mondezza, però mi raccontava sempre che ha avuto un sacco di problemi, anche amici che abitavano di lì vicino, lo stesso mi dicevano, mamma mia, ogni giorno c'è questo cacchio di televisione, di radio. Ma pensa tu che riendo scherzando, come ti dicevo l'altra notte, come ti ho detto l'altra notte, mi è venuta fuori una specie di una trasmissione pomeridiana sponsorizzata da Disco Service, tanto per cambiare da zero. Praticamente a una certa ora lui mi chiamava e facevamo questo sketch, no? Che era come se chiamassi io, e facevo il vicino di casa rompi il palle e iniziava a dire basta, ti sento dentro il microonde. Ah, così. Disco Service era a Zenopiso, mi pare, no? In campo, a Zenobio. C'aveva il negozio in via Coso, in via Oriani, che poi c'è passato un laboratorio dopo, sì, un piccolo laboratorio. Via Oriani 35A. Sì, non lo ricordo. Era uno dei DJ più famosi, non il più bravo, ma uno dei più conosciuti, perché lui lavorava al Blue Star e si è fatto il nome di lì, anche se c'erano molto più bravi di lui. Però, diciamo, ha fatto la storia negli anni 80 della musica disco, perché il Blue Star era numero uno nella zona circondaria di Sassari. Fabio. Hai detto l'indirizzo dove stava questo, tra un po' diciamo anche il codice fiscale, come si chiama, nome, cognome, tutto sapra molto, anche quando vai in bagno. No, ma io non l'ho passato le mentali, capito? Perché quando ero lì in radio toccava mettere la pubblicità, ero quello più veloce con le mani a mettere le cassette, le avvolgere e farle ripartire, oltre a passare. Ero quello, poi mi ricordo un sacco di cose a memoria, tipo il 29, 42, 64, e quando mai te lo puoi dimenticare. Capito? Cioè, sono quelle cose che c'hai in testa e le dici così. C'era lo pacchetto pubblicitario di Disco Service, che me lo ricordo a memoria per quello. È perché certo il numero di radio 29, 42, 230, 220, te lo ricordi il numero di chi era? Allora io c'ho un'ottima memoria, ricordo un sacco di numeri di telefono. 230, 220, che non è nuovo per niente, ma di chi è? Radio 0. Ah, Radio 0. Boh, a memoria di sacchi di tipo Radio Holiday, la prima a Sassari. A Sassari la prima radio. Sassari la prima radio, bravo. Guarda, di radio, se stiamo a parlare di radio, qua si possono fare la storia della radio privata in Sardegna, non in Sardegna, scusa, Sassari, e anche qualche zona limitrofa. C'ho un'ottima memoria e soprattutto perché sono grande appassionato, ti racconto tante aneddoti, tante cose stranissime, perché poi nel piccolino c'avevo anche io una piccola stazione per cui ci conoscevamo tutti, e più o meno, dai, sono capitato da tutte le parti. Cosa volevo dire? Riccardino, vabbè, lui ha detto le radio, lui conosce solo le radio nuove, quelle nazionali, ma prima che c'erano le battaglie, uno pompava più dell'altro, si bisticciavano perché lo disturbava e cercavano sempre di avere un po' di qualche watt in più. Allora, dimmi tutto. Studio 1 di Radio Venere, in basso a destra, sintonizzatore Pioneer, per cosa lo usavano? Sintonizzatore Pioneer? In campo, lo usavano per sentire gli altri, per la fine. Ma tanto, guarda come sta facendo questo, aspetta tu che vado in bagno. C'era molta gelosia, c'era molta invidia e gelosia delle radio, c'era altre che venivano tutti a nuda, radio di un certo pregio, ma lui, quella che abbiamo nominato prima, aveva molta invidia, anche se devo dire una grande, a livello di coso, di ordine, di pulizia, non posso dire niente, era una bella radio, fatta bene, non si fumava, non c'era mondezza, la gentaglia che entrava, perché in certe radio, mamma mia, entravano cani e pucci, diventavano peggio del coso, dei bordelli. Ok, Claudio, di nuovo o Gianni, uno di voi due va. La Puglia, Carlo Griseto, no, guarda, sai, ti sto ricordando, è tutta la mia infanzia, tutti, i DJ quasi tutti, li ho conosciuti. Quello che hai nominato prima tu, molto, molto, un bel programma, molto seguito, molto intelligente, di cultura, eccetera. Molte volte si parlava anche di argomenti, non le solite musiche, cioè di roba musicale, si parlava anche di altre, di altri generi di argomenti. No, no, ce n'erano tante di radio che eravano bei cose, anche quando c'era Coso, la Radio di Carlo Borghesi, quando faceva il programma lui in un certo orario, bello Radio Zero, la domenica mattina al Conto Zero Giornale, che era un piscio con Bacchisio, Lucio Cuni e compagnia cantante, era veramente un bel programma. C'è un amico mio che c'ha tutte le cassette registrate, ma era una cosa da ridere. E poi da lì è nato Aspirina ad Antenna 1, non so se ve lo ricordate, il programma a televisione Antenna 1. Fabio K, che me lo ricordo, una videocassetta qua, una compilation, troppo ridere. Ma pensa tu, guarda, appena arrivo a Russia ti faccio una foto di mango del mio laboratorio dove c'è Lucio Coni che beve dopo 20 anni, te vuoi immaginare? Allora, io Lucio Cuni lo conosco molto ma molto bene, perché ha fatto anche lui la storia della radio, è un innovatore, è direttore responsabile della cosa, è stato di della cosa giornalistica di Sardegna 1, ha lavorato un po' da tutte le parti, una persona, è un grande, è un personaggio che ti fa morire dalle risate perché non riesce a essere serio quello lì. Il figlio lo conosci? No, negativo. Dopo tanti anni ho portato un'amica alla chiesa e speravo di non vedere nessuno, di vedere il locale e andarmene rapidamente. Invece siamo entrati, stavamo già uscendo, mi ha beccato Arturo, mi ha fermato lì, ma 10 minuti prima io sono arrivato in macchina che non c'era nessuno nel parcheggio con questa mia amica. Lui è arrivato, ha parcheggiato praticamente a fare di vetri da me, ha aperto il cofano, ha tolto le valigie di dischi, li ha appoggiati, mi ha intravisto dentro, ha pensato aver visto un fantasma, l'ha visto male ed è entrato, non ci ho voluto credere che ero io. Allucinante. Ma tu il fratello l'hai conosciuto, Gianni Cuni, buonanima. Ma perché buonanima? Perché è morto. E ho capito, ma quando? Diversi anni fa, almeno una quindicina d'anni fa, 12-15 anni. Quello lì era un grande tecnico, quello lì era un tecnico della RAI, un tecnico del suono della RAI, proprio lavorato alla RAI. Infatti la qualità audio di Radio Zero era top, non ce n'era per nessuno, c'era le apparecchiature eccellenti e soprattutto era molto curata la qualità del suono di emissione, non ce n'era per nessuno, ma anche la RAI in certi momenti non usciva bene come usciva lui, c'aveva una qualità senza avere grande potenza, perché aveva la datacella, usciva con 130 watt, c'aveva un pilota della Itelco come pilota, ma una qualità audio di modo questa, ma di trasmissione non c'era, nessuna radio usciva in un modo così. Infatti io mi facevo le registrazioni quando c'era la radio mia, molte canzoni nuove le registravo che da cosa, da Radio Zero, perché c'era una qualità di emissione spaventosa, solo la RAI si avvicinava e vabbè in certi casi anche lo superava, però se ripetete la RAI usciva con molte volte con un po' di frusci, di disturbi, perché erano segnali ripetuti, molte volte i trasmettitori non erano al 100%, per cui non arrivava a piena qualità. Però Radio Zero all'epoca era super curata sulla qualità di emissione, era un punto di riferimento. Poi abbiamo avuto intorno persone che hanno fatto grandi cose, però abbiamo questo vizio di sottovalutare, abbiamo questo vizio di denigrare, capito? In generale dico, io penso di essere fatto di tutt'altra pasta, però ho visto delle persone che le ho considerate molto basse e non hanno avuto quello che si meritavano, forse neanche la metà di quello che si meritavano, agli occhi se non altro. Attenzione canale 10. E che è questo? Questo è un nuovo, avanti. Comunque volevo salutare a tutti, ciao Gianni, ciao Claudio, ciao Roberto e ciao Fabio, ecco gli altri eventuali in ascolto. Vado dentro casa perché mi stanno chiamando, non si può mai fare radio tranquillamente. State attenti, non parlate male di me perché ho il portatile sul letto, a letto, e quindi ascolto tutte le cose che dite, quindi non azzardatevi a parlare. Allora ti puoi fare una cosa, prendi un registratore, annota tutto, orario e tutto, così partono le denunce. Vai Fabio, ciao Riccardo, comunque buon tutto, buonanotte e buon riposo per domani, per stanotte e per domani, quando ti alzi buona giornata, vai Fabio. Scappa, poi quando tu le parliamo male. Va bene. Riccardo, tanti saluti e ci sentiamo domani sicuramente. Saluto anche a casa. C'è un po' conformale. E niente, Gianni e Claudio, avanti. Allora, Teleobiettivo Sardegna è stata la prima televisione, diciamo, a carattere locale. Di sa di che si riceveva a canale F, ci voleva con l'antenna in VHF trasmetterla addirittura. Era un'antenna enorme, come si chiama? Ed era Benito Castagna, giù al corso Vittorio Emanuele, che trasmetteva, io ho visto, lo conoscevo anche per nome di persona perché faceva anche il fotografo, è stato un innovatore, un ricercatore, tutto quello che può essere uno scienziato della radio, perché quello faceva delle cose che se ci pensi adesso dici non è possibile, degli effetti speciali, ancora non esistevano le sovraincisioni, sovrascritture sulle immagini, eccetera. Lui faceva delle cose di lì proprio a livello elementare, amatoriale, era un cranio, era. Non so se te lo ricordi tu, Fabio. Mi ho sentito parlare, però non ho seguito, io ho tutto audio in quel video. Non ho capito, scusa. Mi ho sentito parlare, però non l'ho seguito. Io ero per l'audio più che altro. No, ma era ancora in bianco e nero la TV in quel periodo lì, stiamo parlando degli anni 70, 70, 73, 74, secondo, no, sì, ecco, 75, non più di 75 comunque, era proprio a livello amatoriale, ma a livello casareccio di coso, di emissione. Poi alla fine mi ricordo c'era la parte finale delle trasmissioni, perché finivano mi sembra alle 9:30, massimo alle 10, e c'era un tipo, un disegnatore, che faceva un'immagine ogni giorno, tipo Jeff, quello della Nuova Sardegna, e ti faceva una specie di topolino tipo quello dell'Agostina, quel personaggio di lì, e a seconda dell'argomento ti faceva questo disegnino. Infatti compriamo le trasmissioni in compagnia di, non mi ricordo come si chiamava, tipo Lupo, un nome così era, un nome breve, e faceva questo disegnino ogni notte con la matita, faceva con un pennarello, anzi, e faceva questo disegnino e poi chiudeva la trasmissione. Era una cosa veramente carina, perché poi le immagini erano molto scarsa, bassissima qualità, proprio si erano malissimo, però c'erano molti programmi fatti in casa, cioè riempivano il palinsesto della trasmissione, cioè nel programma, della programmazione, con dei programmi fatti in casa, davano, per dire, piccole partite di squadre dilettanti parliamo, compresi dove la squadra dove c'ero io, la squadra nostra, facevano tante cose, per dire, di poesie, ma cose che all'epoca era molto strano vederle. Poi vabbè, poi sono uscite tutte le altre televisioni, ma era ancora una cosa, l'antenata, diciamo, delle televisioni private, che sono nate dopo 4-5 anni. Insomma, un futurista, poi non ha avuto altri progetti. Ma tu devi avere le attrezzature, con cosa lavorava questo, tutte le apparecchiature autocostruite, era molto bravo in autocostruzione, ma faceva poi delle cose, degli effetti, per dire, effetti speciali, tutti fatti in casa, un po' come faceva Giovanni Bracco, cose così, ed era bello vedere questa cosa qua, l'inventiva di questa persona qua, le scritture quando, per dire, davano un programma fatto da loro, proprio scrivevano un pezzo di carta, lo inquadravano con la telecamera e leggevano, dice, personaggio e interprete, scriveva poi a cura di, non c'era ancora la sovraimpressione come adesso, diciamo, già dagli anni 80 era una cosa normale, ma negli anni 70 era una cosa, solo la RAI ce l'aveva la sovraimpressione sull'immagine. Ecco, ma anche per l'attrice, sai che dovrei averne una da qualche parte dei primi anni 80? Anche io ho la titolatrice di coso, c'ho anche RTTY, con il sistema per mandare le immagini, ti ricordi quel piccolo computer con la tastiera che si collegava al baracchino, eccetera, mi ha dato proprio Giovanni, ma mi ha dato un sacco di roba, sono pezzi da museo ormai, però sono interessanti perché quelli sono proprio gli albori della radio, della radio parliamo CB. Sì, ricordo. Vabbè, io sono arrivato un po' dopo, ma ero talmente appassionato di queste cose che frugavo, facevo, smontavo, chiedevo, diciamo che sono anche un po' più palle, dai, perché ero troppo fissato. No, sempre una bella cosa. Guarda, io da bambino, da quando sono nato, si può dire che ero interessato alle telecomunicazioni di tutti i generi, di qualunque cosa, è una cosa più forte di me, mi è sempre rimasta e penso che mi rimanga per sempre. Ma in quei tempi cambiano le tecnologie, però era una cosa bellissima. La prima cosa, quando mi hanno regalato a Natale i walkie talkie che facevano 20 metri di distanza, era il sogno più grande, è parlare da lontano, imitare le cose, i vecchi coso, come si chiamano, quelle squadre speciali tipo i SIS, la BC che escono con di nascosto, ci mettevamo in campagna nascosti per non farci vedere. Guarda, cose bellissime, ho dei bellissimi ricordi. Avanti di nuovo Gianni o Capri, e o Claudio, uno dei due. Sì, era il canale F, utilizzava un'antenna molto molto di dimensioni molto grande. Noi quando eravamo ragazzini, mio babbo aveva messo il canale francese, TV France 3 c'era allora, o 2, se non mi ricordo, puntava un'antenna enorme, c'era un'antenna, non so quanti elementi era, sarà stata 80 elementi, super direttiva, puntata verso la Corsica, e riuscivamo a vedere in seccam, in bianco e nero naturalmente, perché la televisione non c'era, e avevano fatto mettere questo convertitore su una modifica che avevano fatto sul televisore, in bianco e nero, per ricevere questo canale francese. Eravamo noi uno dei pochi che a Sassari se l'aveva fatto mettere, perché c'erano solo due canali quando ero ragazzino, non so se tu ti ricordi, e prima chiedeva a Fabio e poi lo rifacciamo ripetere a Gianni se si ricorda. Ma io sono arrivato con un paio di canali in più, perché praticamente ho iniziato a capire qualcosa nel 74, che avevo 4 anni più o meno, nel 78, e già lì c'era qualcosa in più, eh. Sì, nel 78 c'era già il boom delle televisioni e delle radio private, dai. E tu ti ricordi del discorso delle televisioni francesi? Sì, sono belle cose. Poi c'era il periodo quando è arrivata a Tele Monte Carlo, che Fusaro ha messo il ripetitore all'Imbara, e dall'Imbara suonava Monteoro, e da Monteoro ripeteva Sassari, ripeteva il segnale di Tele Monte Carlo. Ma all'epoca, cavolo, che c'era quello, come si chiama, quelli di radio Monte Carlo, c'era Wanagana, all'inizio faceva un programma tipo Disco Ring, cosa del genere, e l'altro Predolin, Maurizio Predolin, erano proprio l'alboro che davano i primi come si chiama, video musicali, che ancora non esistevano, la RAI non te le davano ancora. È stata a Monte Carlo proprio gli albori della musica, dell'emittente molto improntata sulla musica, a contrario della RAI era troppo inoltrata su Tribuna Politica e cose del genere. Il film il lunedì, mi ricordo, solo il lunedì c'era il film, alle ore 20:30 c'era, anzi alle 21 dopo Carosello c'era il film, tutti i lunedì e buio, il resto non c'era niente, Tribuna Politica o programmi da TV dei ragazzi alle 5 e buio, non verrà nulla, qualche documentario e cose religiose. Però sono dei bei ricordi, vi posso dire che ci accontentavamo di niente noi. Adesso di canali ne hai di tutti i generi e di qualunque colore. Intervengo l'ultima cosa, dico, la prima televisione a Sassari, la prima volta che si è vista a Sassari, la televisione Rai 1, parliamo, canale 1, non ce n'erano altri, l'aveva fatto Grischenko, è stato proprio il primo che ha portato la televisione a Sassari, si riunivano, andavano nel coso, poi in qualche cinema lo mettevano qualche volta, eccetera eccetera, poi da lì è nato tutto qua. E Grischenko, padrone di Radio Giovane, è stato il primo a avere la radio prima di uscire dalle televisioni private. Lui aveva un trasmettitore militare modificato e trasmetteva in AM, in modulazione di ampiezza, e si ascoltava anche in continente, lo ascoltavano con questo, c'aveva una bella antenna, una bella posizione, e si faceva ascoltare sino al continente. Ecco, questo vedi, tutto questo non lo sapevo. Mi ha seguito un po' agli albori della TV, la prima TV che è arrivata qui nella Sardegna, è arrivata a Chiaramonti, e Grischenko l'ha fatta contemporaneamente a Cagliari, però pensa che io. Ma non lo so, io la prima televisione che ho conosciuto prima di Videolina, perché Videolina è nata ai tempi delle televisioni, quando hanno liberalizzato le radio private, eccetera, dalla costola di Radiolina è nata. Grauso ha fatto prima Radiolina e poi Videolina, diciamo c'erano i soldi, però la prima proprio televisione, chiamiamola quasi di quartiere, perché Sassari era molto più piccola e non esistevano i quartieri dove stiamo noi adesso, anzi noi eravamo proprio periferia campagna, è stata obiettivo salariale. Sto parlando, io ci avrò avuto 8 anni, stiamo parlando all'inizio degli anni 70, 71, 72, ed era proprio una televisione che se la vedevi adesso ti fa anche sorridere. Io ho visto dei video, delle registrazioni fatte con pellicola di coso, di programmi che poi loro te le rimandavano, era una cosa, mamma mia, molto molto, cioè ti fa anche tenerezza a vedere certe cose, però allo stesso tempo dici guarda come si riusciva a fare una televisione nonostante le limitatezze delle cose. Sì, ma parlavo di apparecchio di gestione, apparecchio televisivo, Trichenko l'ha fatto a Cagliari, mentre Mario Trudeau Budroni con l'aiuto di Tomasino a casa di mio nonno aveva piazzato il televisore. Pensa tu, ci hanno messo, mi sembra 20 giorni di più, quanto mezzetto, cioè aveva messo i miei ricordi nei vari racconti, per costruirlo dentro l'armadio, fatti i conti. Figurati. Beh signori, io adesso interrompo perché domani bisogna alzarsi per guadagnarsi la pagnotta. Sempre un piacere ascoltarvi, è sempre divertente e interessante. Ciao Fabio, ciao come si chiama Claudio, ciao Gianni, eventuali amici che ce ne saranno tantissimi in ascolto, che questo come al solito ci sono. E poi Fabio, sono l'ultima cosa, tra l'altro la GPC a chiedere di quella antennina per il navigatore GPS, me ne ha fatto vedere una che tra l'altro costava anche un pochettino, pensavo costassero di meno perché è un pezzo di filo, però c'ha un connettore, non c'ha un SMA di connessione, c'ha un altro strano a innesto tipo quello che c'ha per la chiavetta USB Claudio, il figlio di Gianni. Se ti ricordi di andare e se ti viene a recuperare quella cosa che mi hai detto, quella antennina naturalmente con la paga. No, capa, stavo pensando, è che adesso ho avuto impedimenti, sai cosa voglio fare? Domani se riesco mi sgancio 10 minuti e faccio in officina a te, che ci vediamo di persona e magari a posto di stare da un passaggio all'altro in 5 minuti c'è un questo più lungo di quello che si può fare in 27, sempre il lavoro tuo permettendo, e comunque prima che la telefonata un messaggio, Roberto. Ehi, così ti faccio vedere qualcosina, dai. Ok, dai, vi saluto di nuovo, ciao Fabio, ciao Claudio, ciao Gianni, correti da parte mia, ciao ciao. Campa, metto a Catinalino, vabbè, tanto anch'io devo fare corretti, ce l'ho vicino, anzi, veramente Roberto mi ha anticipato. È un piacere, come al solito, per parlare con voi, avere un quartiere con voi. Vale per Roberto, vale anche per Riccardino che ascolta, anche se non abbiamo parlato mai di lui, peccato. Per Gianni e per Claudio, sempre un piacere. E ci sentiamo sicuramente domani. Buon correttivo e tutto, grazie. Ciao, ciao Gianni. Sì, hai ragione. Ciao anche agli ascoltoni, che sono in tanti. Buonanotte a tutti.